Sono le 17, siamo in diretta da Piazza Puntoni per l'ultima puntata dei Ragazzi del 77. Oggi qui con noi un graditissimo ospite, Pino Cacucci, ciao. Ciao a tutti. Oggi volevo ricordare per eccoci chi ci ascolta. Ciao. Eccoci. Per chi ci ascolta dalla piazza, per chi ci ascolta in diretta, in streaming sul sito eliamedia.org o su Radio Cairossa al 105.85, che la puntata di oggi è una co-conduzione. E infatti c'è Vincenzo Estremo qui con me, che è un appassionatissimo lettore di Pino. Sì, grazie Giorgia, sì. Infatti non volevo farti vergognare. No, mi sono intrufolato in questa puntata dei Ragazzi del 77, anzi mi sono autoinvitato quasi. No. Perché sono un appassionato lettore di Pino Cacucci da quando avevo 18 anni. Però, fin dall'inizio. No. Allora, oggi ci racconterai, se ti va, un po' dei tuoi ricordi, delle tue esperienze, di com'era Bologna negli anni attorno al 77. So che tu, se è giusto, ti sei trasferito a Bologna nel 75 e hai frequentato il DAMS. Sì, infatti la mia venuta a Bologna è legata al pretesto dell'università. Pretesto perché poi alla fine il DAMS era questa sorta di variopinta nuvola di aria fritta che attirava tanti, e c'era di tutto e di più e anche di niente, però nulla di preciso, però ecco, la spinta era comunque mollare il luogo in cui ero cresciuto. Sono cresciuto in Liguria, anche se nato in Piemonte, ma insomma la voglia era di andare a vivere per conto mio, quindi trovare un'università che per interessi allora molto vaghi, così in qualche maniera ho pensato a Bologna per il DAMS, ma poi di fatto mi attirava più Bologna per quello che emanava come segnali. Cioè a metà degli anni 70 da qui provenivano dei segnali molto interessanti di una vita molto creativa, insomma. Quindi sì, io disegnavo, scribacchiavo, insomma, avevo delle idee molto vaghe in testa su cosa fare da grande, non ho mai appurato poi che cosa voglio fare da grande, però ecco, in qualche maniera, arrivato a Bologna, la principale attrazione non erano tanto gli studi quanto la vita di strada e di piazza, quella che poi ho fatto per anni. Quindi la città ha risposto bene alle tue aspettative? O no? Ma sì, no, sicuramente, vedi, adesso è difficile a distanza di tanti anni riuscire a separare una sorta di mitizzazione che comunque sarebbe sbagliata in questo caso verso la città, così come sarebbe sbagliata verso gli anni 70, il 77, il movimento, cioè mitizzare comunque non conviene, comunque è fuorviante. Però ecco, io adesso fatico un po' a scindere questi due stati d'animo, cioè uno è quello del mio entusiasmo di ventenne che arriva qui e si sente improvvisamente libero di combinare qualunque cosa, quindi molto legato all'età, molto legato all'epoca, al clima che si viveva quotidianamente, giorno e notte, insomma. E cosa realmente fosse questo, cioè se davvero Bologna offrisse così tanto come noi speravamo e credevamo. Sicuramente in parte sì, cioè sicuramente è vero che sono piombato in una città che offriva molto da questo punto di vista, cioè di emozioni, di vita condivisa, di solidarietà spicciola, di facilità di comunicazione. Credo che questo si possa dire, cioè che Bologna si differenziasse abbastanza dal resto di altre città, con altre università, meno, cioè un movimento meno ideologico, meno quadrato rispetto a Milano, Roma, insomma. C'era un gran casino e lì ci si sguazzava in maniera molto, molto allegra, molto. Poi magari appunto ecco, varrebbe la pena spendere un po' di parole, un po' di tempo su quell'allegria, quell'ironia che purtroppo è stata dimenticata in fretta. Poi hai dei ricordi particolari rispetto a questo, cioè come passavi le tue giornate, quali erano i tuoi luoghi di lezione, le persone che frequentavi? Ma un po' generica sia, come domanda. Comunque sia l'università era il centro, insomma il fulcro, la Piazza Verdi era il posto dove trascorrevo più tempo che a casa, poi casa non esisteva, cioè erano queste stanze da studenti, come ben sapete, dove comunque ci si andava il minimo indispensabile, anche per studiare, quel poco che studiavamo, che io studiavo. No, all'inizio c'era anche questa spinta, no? Sì, chiaro, il DAMS, le varie materie di studio, insomma, comunque questo interesse c'era, non è che fossi venuto per strafregarmene dell'università, però comunque sia la parte predominante della quotidianità era quella di piazza, era quella di incontrarsi e discutere di qualunque cosa, ma anche... sì, è questo che diventa un po' difficile da raccontare a distanza di tempo, cioè questa frenetica voglia di cambiare tante cose andando oltre la politica, cioè cambiare le cose nell'essenza del vivere, nella quotidianità, nei rapporti tra le persone, nello stare insieme, quindi comunque sia quell'aspetto lì non credo di averlo mitizzato io, comunque era così, non che fosse una cosa unica nelle epoche o nel mondo, per carità, però di fatto fu la principale attrazione, ecco, quindi io mi trovai in una Bologna che tutto questo me lo offriva, che mi dava un'intensità di vita quotidiana che pian piano si è sbriciolata, che sono invecchiato io, che è cambiata la città, è cambiato il mondo, spesso, quasi sempre, se non addirittura quasi, appunto, se non sempre, quasi sempre, in peggio. E quindi per questa da qui la mia fatica nel separare le sensazioni dei 20 anni, che comunque sono intense per tanti motivi, e cosa realmente fosse, cioè in parte però era realmente così, credo di sì. È così nel ricordo di molti, quindi pensiamo anche noi che sia così. Sì, ma poi per carità, ripeto, mai mitizzare, ma quello che, come dire, più che una colpa, una sorta di mancanza o di tara della mia fetta di generazione, è stata l'incapacità di raccontarlo, cioè è un po' un paradosso, perché così come io mi sono messo a scrivere libri, però tutti i miei coetanei di allora, con cui abbiamo condiviso tutto questo, molti sono diventati raccontatori di storie, no? Scrittori, narratori, qualcuno lo fa anche attraverso il mezzo cinematografico, insomma ci sono stati tanti da questa fetta di mia generazione che si sono messi a raccontare le storie, ma non siamo stati capaci di raccontare noi stessi. Cioè c'è molto poco e molto frammentario di tutta questa esperienza. Siamo rimasti un po' travolti e annichiliti da quello che è successo dopo. Cioè è stata talmente forte e intensa quella stagione, almeno io l'ho sentita così, l'ho vissuta così, che dopo quello che accade verso la fine degli anni 70 ha in qualche modo affossato e messo a tacere tutto quello che c'era stato prima. Cioè, provo a spiegare, ancora oggi, ed è da molti anni che viene usato questo orribile termine, cioè ancora oggi si parla degli anni 70 come gli anni di piombo, no? Io invece i miei anni 70 sono stati anni solari, anche quando pioveva c'era la nebbia o la neve, e sono stati anni di una, dicevo, allegria, ma di una ironia costante su tutto. Cioè la cosa straordinaria di quegli anni prima della fine dell'inizio dell'era della glaciazione degli anni 80, prima che si cascasse nel baratro della lotta armata, dell'eroina, insomma di tutto quello che verso il 79 ha spazzato via tutto. Ecco, prima siamo stati incapaci di raccontare quanto ci siamo divertiti, perché i miei ricordi sono di una, un estremo divertimento quotidiano. I muri parlavano, ma io ricordo che trascorrevo anche delle ore a sghignazzare con gli altri leggendo le scritte sui muri, perché c'era delle cose esilaranti, anche a volte in forma di poesia. Ecco, questa cosa si è persa, perché a parte qualche libro fotografico, a parte qualche sorta di reperto archeologico su come eravamo, ecco, ci siamo lasciati travolgere dall'immagine posteriore, cioè quella del sangue, dei morti ammazzati, delle migliaia di persone in galera, che sì, sono state una realtà, ma è veramente un peccato, un danno nei confronti della memoria, della storia, che noi non siamo riusciti a raccontare quanto ci siamo divertiti e quanto abbiamo preso per il culo il potere. Cioè, era questa la cosa che ti spingeva a stare sempre in giro. Perché, ripeto, soltanto a leggere quello che c'era sui muri, c'era da scompisciarsi dalle risate, e c'era questa costante ironia, a volte feroce, a volte sottile, a volte poetica, contro il potere in qualunque forma esso si manifestasse, e contro tutti quei pusillanimi che credevano di ricavarsi un briciolo di potere personale, leccando gli scarponi a quelli che avevano il potere vero. Ma non è un caso, come dicevo prima, insomma, che sì, Bologna attirava proprio perché sicuramente era la città più creativa da questo punto di vista, meno ideologizzata, e che più fece i conti contro, come definirli, i padri con la testa di legno, insomma il Partito Comunista, che non riuscì a capire assolutamente un accidente di quello che stava succedendo e si contrappose. Ma mentre questo accadeva per colpa dei dirigenti, per colpa di una dirigenza ottusa, poi c'erano tanti singoli militanti che magari venivano convinti che noi eravamo il diavolo, che dopo, conoscendoci, ci offrivano la piadina o facevano la crescentinata, perché arrivano gli autonomi, oddio, barrichiamoci, poi finiva sempre a taraluce vino nel vero senso della parola, si stappano delle bottiglie. Questo accadde veramente in alcuni casi dopo gli scontri del 77. Insomma, c'era anche questo aspetto della Bologna sacra, perché tempio del Partito Comunista, e noi che eravamo un po' gli eretici che volevano in qualche modo incrinare la vetrina dell'eurocomunismo. Ma al di là poi di questo dettaglio, ecco, sicuramente non è un caso che, questo a livello nazionale, non tanto riferendomi a Bologna, tutti quei figuri di capi e capetti del movimento che avevano ideologie più squadrate, cioè quel marxismo-leninismo, quello stalinismo, che faceva sì che loro ci vedessero appunto come minimo come dei fuori di testa, dei tardo fricchettoni, degli imbecilli, dei rompiscatole, eccetera. Poi, guarda caso, diversi di questi, almeno i capi di allora, oggi ce li ritroviamo ad essere appunto quei pusillanimi del potere, cioè che sono diventati gli assessori regionali del partito di Berlusconi, e allora erano i rivoluzionari puri e duri che andavano con la faccia di Stalin nelle manifestazioni e noi li spernacchiavamo. Vincenzo, io volevo fare una domanda invece sull'incapacità di raccontare quegli anni. Perché in realtà per me quegli anni sono abbastanza un ricordo letterario, ovviamente, no? E volevo chiederti proprio quanto invece la letteratura, quindi la narrazione, ha contribuito a creare una specie, questa specie di alone di mito intorno a quegli anni. Ma sai, non so bene quale letteratura, perché, ripeto, noi non siamo riusciti a produrla, oppure abbiamo cominciato a tentare di farlo molto tardi. E sì, ci sono, cioè io penso sempre agli Invisibili di Nanni Balestrini, forse resta uno dei rari testi e tentativi di raccontarci, pur fatti da uno che era già un po' più anziano di noi quando viveva tutto questo, quindi li ha raccontati, no, per carità, con la sua presenza anche fisica, però già è la generazione precedente. Noi che invece l'abbiamo vissuti e fatti, insomma, e incasinati quegli anni, alla fine, se vai a vedere quello che abbiamo scritto, come nel mio caso, è sempre altrove, è sempre o indietro nel tempo o da un'altra parte del mondo. Poi, magari, leggendo, ti accorgi che tentiamo di raccontare anche la nostra di storia, cioè anche nelle cose che scrivo io, se apparentemente non c'è nulla di autobiografico, poi di fatto vado a interessarmi di certe persone di cui raccontare la storia perché mi ricordano un po' quello che anch'io ho vissuto nella mia situazione qui. Il discorso del mitizzare, io lì non saprei, cioè, perché da un lato per tanti anni ci hanno demonizzato più che mitizzato, cioè quegli anni sono stati demonizzati, sono stati gli anni bollati dal terrorismo, che ripeto è completamente fuorviante, falsa questa immagine, almeno andrebbe separato quel settore minoritario che si è buttato in quel calderone dall'enorme quantità di esseri umani che invece hanno fatto tutt'altro e che poi molti di loro, ognuno nel piccolo della propria esistenza, ognuno nella quotidianità, ha continuato a mantenere quella dignità che aveva allora, insomma a cercare di mantenere quantomeno un rapporto decente con l'esistente. Però ecco, forse la mitizzazione viene dal fatto che fu una stagione di vita molto intensa, una sorta di fiammata, poi si è spento tutto, si è disperso tutto, sono rimaste delle ceneri e allora, non essendo riusciti un po' a trasmettere quello che realmente era accaduto, ognuno poi l'ha pensata alla sua maniera, magari tanti mitizzando anziché provare a andare a scavare sotto quelle ceneri. Sì, infatti forse tutta la parte d'analisi non era nemmeno demandata a voi, voi dovevate fare altro, cioè voi in quanto scrittori in questo caso. Io per dirti, ieri ho detto che saresti venuto in trasmissione degli amici che sono in Germania adesso e stanno costruendo una casa, si stanno costruendo una casa nella Schwarzwald. E niente, siamo tutti grandi lettori, come ha detto Giorgia. E loro mi hanno risposto con un messaggio sul telefono e mi hanno scritto: in ogni caso nessun rimorso. Ecco, quel titolo mi ha segnato. Infatti ti ha segnato. Io a quel punto avrei preferito non farti la domanda su Schulbono, però non posso esimermi. No, ma infatti stavo quasi per citarlo io, meno male che l'hai fatto tu. Perché quando prima dicevo, alla fine, anche nei casi in cui mi sono messo a scandagliare vicende lontane nel tempo e addirittura lontane da qui, alla fine lo stimolo era raccontare anche noi stessi. E quindi nel momento in cui decido di provare a scrivere un libro sulla vicenda di Jules Bonneau, trovando quel titolo che adesso non saprei neanche più dire se l'ho inventato io di sana pianta, perché comunque Jules Bonneau scrisse Non ho rimorsi, cioè prima di essere, quando era ormai assediato, prima dell'ultima pallottola, lasciò qualcosa di scritto che ci assomigliava. Ovviamente io l'ho modificato a mio uso e consumo, trasformandolo nella frase: in ogni caso nessun rimorso. E gli faccio anche dire: magari ho dei rimpianti, ma rimorsi non ne ho, qualunque cosa io abbia fatto. Però ecco, a parte che tutti i miei trascorsi anarchici, io insomma sono anarchico fin dall'età della sragione, per cui penso che lo resterò sempre, insomma, quindi comunque fin dall'adolescenza mi portavo dietro la curiosità per il personaggio di Jules Bonneau come simbolo di un individuo dotato di una forte sensibilità a fior di pelle, che diventa per la società un criminale, un assassino, un nemico pubblico numero uno, ma questo per un eccesso di sensibilità. Ecco, io lì ci vedevo il simbolo della mia fetta di generazione, cioè ci hanno demonizzato per un eccesso di sensibilità, perché comunque avevamo ben chiaro che questo sistema era marcio, che la casta politica era putrefatta e corrotta molto prima che qualche magistrato si decidesse a metterci le mani. Eravamo forse un po' troppo avanti su questo, nessuno ci è venuto dietro, i partiti tutti, dalla destra alla sinistra, ci hanno sbarrato e chiuso in un vicolo cieco, però di fatto Ecco, la mia attrazione per una vicenda come quella di Jules Bonneau è legata anche a quelle esperienze lì. Cioè tentare di raccontare come un giovane, insomma, perché poi era giovanissimo anche lui, con ideali anarchici, libertari, che tenta di comportarsi in ogni istante della propria esistenza in maniera corretta verso il resto del mondo, quindi non che comincia a tirare delle bombe, ma che viene chiuso in un angolo perché nasce povero fin da bambino e lavora in fonderia, insomma, e continua ad accumulare frustrazioni e umiliazioni finché non si ribella. Nel momento in cui si ribella lo stroncano, gli spezzano le gambe e allora si ribella ancora di più. È quello che è accaduto a tantissimi. Spesso, insomma, si fa presto a liquidare certe vicende sanguinose, violente, però bisognerebbe sempre andare a provare a chiedersi: ma come si è arrivati a tutto questo? Perché la storia spesso è molto lunga sul come si è arrivati a tutto questo. Allora, uno come Bonneau mi sembrava il simbolo. La parte finale è chiusa in un museo di criminologia, per cui la storia ce lo consegna come il primo che fece una rapina in banca in automobile. Forse lui, sì, era un antesignano, non poteva aver letto Brecht, perché Brecht l'avrebbe scritto molto tempo dopo, che è molto più grave fondare una banca che rapinarla, cioè che è crimine ben più grave, parafrasando Bertolt Brecht, è crimine ben più grave fondare una banca che rapinarla, insomma, quindi lui fu un antesignano in questo, però ecco, rapinava banche non perché volesse arricchirsi, ma perché in qualche maniera le considerava già allora la fonte di tutti i mali della società. Quindi ovviamente poi i soldi li distribuiva agli scioperanti, ai minatori, ai tipografi anarchici che stampavano gli opuscoli dei ribelli, insomma. Però ecco, alla base c'è questo, cioè l'eccesso di sensibilità di un uomo che poteva avere successo nella vita perché, pur essendo pressoché analfabeta, insomma, aveva, cioè non era analfabeta perché era un po', come dire, autodidatta e leggeva moltissimo, soprattutto i testi dei grandi pensatori libertari, però ecco, aveva questa predisposizione, quasi un talento innato con i motori, ai tempi in cui i motori cominciavano la loro storia nefasta per quello che vediamo oggi, però insomma in qualche maniera abbiamo le prime automobili, i primi camion, e lui dei motori capisce tutto. Sarebbe potuto diventare un ingegnere. Henry Ford. Sì, ma ecco, se avesse studiato. Dico, invece anche così, ma era diventato comunque un operaio specializzato molto apprezzato, solo che ogni volta arrivava la gendarmeria che lo faceva licenziare perché diceva: quello è un anarchico, un sindacalista che vi crea dei problemi. E così, insomma, chi più simbolo di lui? Giorgio, posso fare un'altra domanda sull'anarchia? Sì. Io, no, non sull'anarchia, ma ovviamente dopo gli scontri di Roma del 15 si sono susseguite delle voci, si è fatto un po' di parlare. Io ho provato a stare un po' dietro a questa letteratura, ma ho trovato un articolo molto interessante che è di uno scrittore, per appunto, parmense, ma che vive a Bologna. Parlo di Paolo Nori. Lui, in un articolo uscito sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa, citando un libro di Piercarlo Masini, La storia degli anarchici, sì, italiani da Bakunin Malatesta, parla proprio di Malatesta e parla del pensiero di Malatesta, e tra l'altro possiamo dire compaesano, perché di Santa Maria Capua Vetri, io sono della provincia di Caserta, siamo là vicino. Parla di Malatesta, che ha un po' questa visione kropotkiana, se si può usare il termine, ovvero di questa anarchia basata sulla mutualità. E Paolo Nori non si rende conto nell'articolo sul perché invece gli anarchici vengono sempre criminalizzati, anche se più o meno la storia violenta degli anarchici è finita ad inizio secolo, ovvero parlo degli anarchici che mettono bombe, degli anarchici che fanno azioni estremamente violente. Però serve ancora a qualcuno l'anarchico cattivo, l'orco della favola. Io trovo sempre molto limitante, per esempio, l'idea che si dà di Jules Bonneau quando si parla del tuo libro. C'è questo anarchico romantico, questo anarchico un po' idealista. Io invece lo vedo molto più una persona concreta, uno che si è fatto il culo, scusate se lo dico in radio. Quindi, cioè, volevo un attimo da te avere un'idea, se te la sei fatta, su questa necessità ancora di avere un capro espiatorio, nemmeno alle soglie del 2000, perché siamo oramai oltre, e ben oltre il 2000. Ma c'è sempre bisogno di questo etichettare, adesso usano a sproposito black bloc, credo che neanche esistano più black bloc, però comunque un fenomeno nato in Germania tanti anni fa. Al momento io non credo che nessuno si definisca black bloc, però i nostri giornalisti continuano. Così con l'anarchia, cioè quando arriva agosto è scoppiato il caldo, si indaga sulla pista anarchica, perché qualunque cosa scoppi gli anarchici sono sempre pronti per prendersi la colpa. È vero che dirsi anarchico è la cosa più facile del mondo, insomma, persino certi reazionari dicono ah sì, io sono un anarchico di destra, cioè bestemmiando veramente oltre ogni limite. Definirsi anarchici è talmente facile che poi chiunque voglia combinare qualcosa che magari arreca danno a quelli più vicini anziché a quelli che ti stanno contro, si definisce anarchico ed è tutto risolto, è tutto facile, perché poi l'anarchismo è talmente variegato che non è un partito, per fortuna, anzi è contrario a qualsiasi forma partitica, e quindi non ci sarà mai nessuno che dà le tessere di anarchismo, nessuno che dica ah, io sono anarchico ma tu no. Per cui è chiaro che se quello che tira un San Pietrino o addirittura una Molotov e c'ha là di anarchia addosso, ci saranno tanti altri che sono anarchici da 50 o 60 anni che dicono ah no, non si fa così, io sono anarchico, queste cose non le farei mai. Ma questo vale per tutto, perché anche il comunismo è tutto e niente, cioè sotto il termine di comunismo ci possono andare dalle Brigate Rosse fino a Berlinguer, cioè, per cui in mezzo ci sta tutto. Questo è il problema, cioè forse per l'anarchismo è ancora più forte il problema, proprio per questo fatto di non poter nessuno dare tessere ed etichette e dire chi è e chi non è anarchico. Poi dopo si sprecano i luoghi comuni, cioè vabbè, magari quello che fa una certa azione illegale si rifà all'illegalismo anarchico dei tempi non solo di Bonneau ma di chi fece ben di peggio, come Ravachol che lanciò delle bombe, o come comunque una serie di anarchici che con l'atto individualista decisero di colpire i potenti e soprattutto i sovrani. Però ecco, noi abbiamo un Gaetano Bresci che il galantuomo è lui, non il re che ha ammazzato, cioè Gaetano Bresci fu il galantuomo che lasciò tutto per venire a vendicare il massacro dei cittadini, dei lavoratori milanesi sui quali Bava Beccaris fece aprire il fuoco con i cannoni caricati a mitraglia, per cui ci fu un massacro a Milano. Gaetano Bresci, lavoratore negli Stati Uniti, migrante, dice questa cosa non può finire così, cioè, e tornò in Italia per vendicare quel massacro. Oggi tutti parlano del re buono che venne ucciso da Gaetano Bresci e ben pochi nella storia ufficiale ci ricordano che c'era qualcosa prima di molto grave, cioè un massacro di gente inerme, donne, bambini e uomini, contro cui il re diede ordine al suo generale di sparare ad alzo zero. Quindi anche lì, certo, è un gesto violento quello di sparare una revolverata a un re, ma che cosa ha fatto quel re? Oggi speriamo di non aver più bisogno di fare queste cose, però di fatto allora ogni cosa va inquadrata nella sua epoca. Allora la violenza era talmente diffusa, cioè l'esercito sparava sugli operai, sui minatori e anche sulle mogli e i figli, e quindi cioè all'interno di questo clima chi è più violento di chi? Adesso la questione è molto spinosa, perché ovviamente vorremmo poter farne a meno di qualsiasi forma di violenza, che comunque è deleteria, perché è controproducente e fa del male soprattutto a chi la pratica, che all'avversario che se ne frega se gli lanci un sasso, tanto continua a fare quello che gli pare. Infatti Malatesta dice proprio in questo passo che viene citato che l'odio produce in realtà repressione e che poi... Sì, però Malatesta, anche lì ci sono varie epoche, varie tappe nella vita di un essere umano. Malatesta da giovane organizzò le bande del Matese, e quindi prese un fucile anche lui e andò a cercare di sparacchiare contro Borboni o Savoia o quelli che di volta in volta opprimevano il popolo. Poi passano gli anni e comincia a ripensare sull'uso della violenza, si rende conto che sono stati sconfitti proprio perché fecero la scelta del prendere il fucile e dice no, se facciamo così ci freghiamo da soli. Però intanto ci aveva provato. E così tanti, cioè io abito in via Andrea Costa. Andrea Costa, ricordato come fondatore del socialismo, ma prima era anarchico e da giovane ha tirato qualche bomba pure lui. Però è finito come deputato del Parlamento italiano e quella fase lì l'ha cancellata. Pure lui da giovane ebbe la tappa della violenza e tirò proprio delle bombe. Andrea Costa. Che adesso c'ha una via. Mi hanno intestato una via. Insomma, dipende poi da chi vince. Insomma, poi anche. Insomma, adesso in questi giorni, a commento delle violenze di Roma, insomma, di quello che è successo, qualcuno ha rimesso in rete una serie di immagini di cosa facevano tra i 20 e i 30 anni certi signori che oggi sono deputati e ministri. Adesso non facciamo nomi, sì, ma insomma, sì. Oggi sono deputati e ministri, allora tiravano Molotov e qualcuno ha anche partecipato a delle manifestazioni in cui è stata tirata una bomba a mano che ha ucciso un poliziotto. Oggi quel qualcuno fa il ministro, insomma. Sì. Allora, volevo dire una cosa, correggimi se sbaglio. Mi sembra che nei tuoi libri, nei tuoi racconti, forse anche a livello personale, sei molto legato alla figura del vendicatore, cioè quello sì. Che cerca di ristabilire l'ordine seguendo quelli che sono i suoi ideali. Allora, ad esempio, c'è uno, forse è l'ultimo, o uno degli ultimi lavori che hai fatto insieme ad Otto Gabo, sta giustizia sì, siamo noi, sì, in cui sì. I protagonisti sono cinque giustizieri che appartengono alla forza della polizia, che usano la loro posizione per carpire informazioni varie e per poi vendicarsi contro corruttori e contro coloro che si fanno corrompere. Questa vicenda, che sembra un po' un fatto così... quasi fantastico, quasi mitico, in realtà... Sì, speriamo che resti un fatto fantastico, perché se dovesse succedere una cosa del genere mi verranno a chiedere perché l'hai scritta prima. Eri d'accordo con qualcuno, sicuramente. No, però in realtà secondo me non è poi un fatto così difficile da concepire nella realtà, perché mi ha fatto pensare ad una cosa, tra le tante ho pensato ad una cosa, cioè a Bradley Manning, che è quel soldato... americano semplice che ha fatto la sua missione in Iraq come analista informatico e ha usato la sua posizione per passare varie cartelle e informazioni a WikiLeaks in cui si leggeva chiaramente che insomma i soldati americani, le truppe hanno fatto delle azioni illegittime e mortali contro dei civili. Questa è una figura di vendicatore contemporaneo. Beh, sì. Esatto. Ma sì, hai detto bene l'attrazione per i vendicatori. In questo ho dei cari amici che condividono pienamente, che anzi forse meglio di me hanno prodotto al riguardo, come per esempio Paco Taibo II, che quando ha scritto la monumentale biografia di Pancho Villa, che io ho avuto l'onore e il piacere di tradurre, ha messo molto l'accento su questo aspetto, cioè mentre che so Emiliano Zapata aveva un programma in qualche modo, aveva il cosiddetto Plan de Ayala, che era un piano rivoluzionario quasi ma anche riformista e comunque improntato ad ideali libertari, Pancho Villa era il vendicatore, cioè lui non gliene fregava niente di qualunque forma di potere, voleva farla pagare cara ai latifondisti che rovinavano la vita da generazioni ai messicani e quindi comincia a colpire queste famiglie di latifondisti, gli ruba le vacche, gli ammazza insomma, le guardie bianche, i loro eserciti privati. Quindi la figura del vendicatore andrebbe in qualche modo rivalutata quasi al di sopra del rivoluzionario, visto che il Novecento poi purtroppo ci ha lasciato in eredità una storia dove tutti i rivoluzionari, quelli che non hanno avuto la fortuna di morire da giovani, poi alla fine hanno avuto la disgrazia di fare una rivoluzione, perché come diceva un rivoluzionario messicano non c'è niente di peggio che possa accadere a un rivoluzionario che vincere la rivoluzione, perché dopo in qualche modo cosa fai? Una dittatura? Cosa fai? Prendi il potere e... tutte le volte finisce allo stesso modo, che se prendi il potere dopo non riesci ad essere molto democratico, tranne rarissimi casi come è stato quello dei sandinisti in Nicaragua, che era un caso talmente unico che l'hanno soffocato nel sangue subito. Però ecco, viene voglia insomma di rivalutare il vendicatore a discapito del rivoluzionario, cioè quello che dice non ne posso più, me ne avete fatte troppe, ho visto troppa ingiustizia in questi anni che ho vissuto, adesso a qualcuno la faccio pagare. Così ha fatto Pancho Villa, insomma, essenzialmente. Ma così hanno fatto milioni di altri individui diventati, non diventati famosi, su cui magari nessuno ha mai scritto una biografia, ma che hanno compiuto quel gesto. Adesso io non mi ricordo la citazione, ma c'è un grande scrittore che tanto tempo fa scrisse: quando l'essere umano subisce delle umiliazioni intollerabili, compie il gesto atavico che fece Davide contro Golia, si china, raccoglie una pietra e la scaglia contro il potere. Che poi il potere sia impersonificato da chi c'hai davanti, pazienza, ma di fatto ecco questo gesto di scagliare la pietra è quella sorta di istinto che poi può portarti ad essere il vendicatore. Allora, concludendo sull'autocitazione, insomma, sulla giustizia siamo noi, insieme all'amico Otto Gabos ci siamo messi lì a pensare a dei tutori dell'ordine. Cioè, tu citavi il caso di un soldato, Liso al dovere, che sicuramente è dotato di una sua sensibilità, che sicuramente si è arruolato pensando: davvero difendo la democrazia, vado ad aiutare un popolo anziché ad opprimerlo, perché quel popolo è oppresso. Quindi forse anche con una visione un po' ingenua del mondo, come tanti statunitensi hanno purtroppo, però di fatto ci è andato in buona fede. Ma grazie alla sua sensibilità si è reso conto di cosa davvero stavano facendo, e così ha fatto un'opera di vendetta che in qualche modo è anche suprema, perché neanche ha comportato un suo gesto violento. Ci sono stati altri casi di soldati che hanno liquidato come impazziti, che però sono entrati nella loro caserma o accampamento e hanno cominciato a sparare su tutti gli altri, poi a loro volta uccisi, liquidati come gesto di pazzia, uscito di testa. Però è un continuo, tante volte non ce lo dicono, cioè c'è un livello di omicidi in famiglia da parte dei reduci dall'Iraq e dall'Afghanistan che è spaventoso. In questo caso, per fortuna, il soldatino ha convogliato la sua vendetta in una maniera dirompente e sana e giusta, diffondendo tutte queste informazioni che poteva. Ma tornando a prima, con Otto ci siamo detti: ma proviamo a immaginare che dei tutori dell'ordine, di quelli che sinceramente ci credono, cioè che pensano davvero di poter aiutare il cittadino, di poter migliorare le cose, che non ci stanno a usare la violenza in maniera brutale, che soffrono magari anche vedendo usare questa violenza da parte dei colleghi e provano a migliorare le cose nel loro piccolo tutti i giorni. Ce ne saranno chissà quanti, no? Allora noi abbiamo provato a immaginare che prima uno, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque non ne possono più e cominciano a dire: adesso basta. Ma è ovvio che abbiamo raccontato con la fantasia una storia di disperati, non di persone che hanno un ideale da perseguire. Semplicemente sono giunti a un tale livello di disperazione, e abbiamo anche provato a raccontarli in dei momenti di vita così al di fuori del servizio o della vendetta, in cui li abbiamo descritti come persone che hanno perso ormai tutto, hanno perso la speranza e quindi sono dei disperati. È una condizione abbastanza diffusa oggi tra la gente comune che abita nelle piazze. Sì, è questo che è pericoloso e terribile: quando perdi la speranza puoi fare qualunque cosa, perché sei appunto un disperato. Diciamo che però ci possono essere nuove forme di lotta, questa del soldato americano. Speriamo. Che citava. No, appunto dicevo, questo dovrebbe essere un esempio. Certo, tanti altri non hanno accesso a questi mezzi e non sanno neanche come fare se volessero in qualche modo incrinare il sistema. Cioè, noi adesso siamo in questo chiosco qua a Piazza Puntoni. Ricordo a chi ci vuole ascoltare che siamo in diretta su aeliamedia.org in streaming, e siamo in diretta anche sulle frequenze di Radio Kairos al 105.85. Mo, a parte questo piccolo riassunto che dovevo fare, penso alla radio e penso ai mezzi di comunicazione e penso alla forza che i mezzi di comunicazione hanno e alla perseveranza di alcuni giornalisti e di alcuni cronisti. E penso al tuo Leandro di Demasiado Corazon, no? Che è un personaggio... Ti ricordi anche come si chiama? Io me l'ero scordato, penso un po'. No, la sua... Io ho detto, già detto che vengo dal sud Italia, è quella fase... Cioè, quel romanzo mi aveva impressionato tantissimo, perché tipo sentivo traslato una vicenda che in realtà io stavo vivendo in prima persona. Le malattie, le leucemie, i tumori, in realtà sono quelle che poi hanno interessato la mia zona. Io vengo dalla Piana del Lavoro. Ecco, quante persone come Leandro avremo bisogno? E qua ovviamente è scontato, mi direi tante, ma quante persone in realtà riescono a continuare o hanno la possibilità di continuare l'azione che Leandro ha intrapreso lì a Tijuana e in Messico? Sì. Beh, per tutti quelli, cioè la maggioranza dell'umanità mondiale, che non hanno letto Demasiado Corazon, riassumo chi è Leandro, cioè il protagonista appunto del libro, che è un po' un Don Chisciotte con la telecamera, che si illude di fare del giornalismo vero, cioè di denunciare i fatti. Puntualmente nessuno gli pubblica niente, anche se poi in qualche maniera la mia storia è un po' più indietro nel tempo. Oggi ci sono molte più possibilità con YouTube, con insomma, però alla fine chi ti va a vedere? Quelli che già hanno la tua sensibilità. Ecco, quindi Leandro è un po' il simbolo di sto Don Chisciotte che prova a dire al mondo: ma vi rendete conto di cosa sta succedendo qui? Io lo sto vivendo, ve lo voglio far vedere, ma semplicemente la gente non vuole vedere, o cambia canale, o spegne, o si dedica ad altro, o lo ignora completamente. Nella fattispecie mi sono basato su fatti realmente accaduti, dove in una zona di Tijuana, delle maquiladoras, di questi capannoni di assemblaggio di lavoro schiavistico, come va definito, c'era in una particolare zona una diffusione spaventosa di tumori, di leucemie in particolare, che misero in allarme un medico del seguro sociale, insomma della mutua del luogo, e questo è vero, che fece, cioè che si chiese: ma perché proprio in questi condomini c'è un così alto tasso? E scoprì che i condomini erano tutti radioattivi, cioè tutti i metalli tondini con cui erano state costruite le strutture venivano da fusioni di materiale radioattivo che qualsiasi mafia che ricicla appunto le scorie nucleari le ha semplicemente buttate in discariche di ferraglia, fuse. Poi dopo, col tempo, si è scoperto che in giro per il Messico c'erano tavolini, sedie, addirittura hanno trovato un hotel che aveva delle parti radioattive, perché sta roba si è diffusa ovunque. E questo è il fatto. E in Italia purtroppo abbiamo, come dicevi tu, mille situazioni analoghe, che sia l'amianto, che siano cioè da Porto Marghera a Taranto, insomma la maggior parte di queste situazioni non sono state neanche bonificate, continuano a produrre morti ingiuste, perché vabbè, dobbiamo morire tutti, ma se tu mi fai silenziose e ingiuste, perché se io in cambio del lavoro, del semplice respirare l'aria dentro una casa perché non mi posso permettere di andare a vivere altrove, e tu mi ammazzi con i fumi e con quello che stai diffondendo. È ovvio, cioè è scontato dire che l'informazione può salvare delle vite. Certo, lo sappiamo. Il problema è come scalfire, come riuscire a incrinare questa sorta di cappa su cui scivola tutto, cioè quella contro cui Leandro da Don Chisciotte si butta contro sti mulini a vento e non riesce mai a far sapere al mondo quello che lui scopre. Però è chiaro che viviamo in un'epoca in cui, volendo, l'informazione c'è tutta, cioè il problema è come farla arrivare agli altri, come convincere gli altri a informarsi. Però già essere informati è un passo avanti per allungare la vita, insomma. Sicuramente. Ciao, io sono Babio e volevo farti una domanda. Prima parlavi di disperazione attuale, ma giusto per tornare al tema della trasmissione, ma 35 anni fa c'era la stessa disperazione che c'è ora, o comunque difficile quantificarla, immagino. Come qualità, come quantità di gente disperata, perché immagino che le condizioni di lavoro fossero gravose anche allora, il lavoro nero c'era, sì, già. Sì, però più speranza, la speranza c'era. Cioè, io non ho ricordi di disperazione finché non arriviamo alla 79, 80, 81, 82, cioè La situazione lavorativa sicuramente non era idilliaca, ma tra gli anni 60 e 70 c'era ancora il concetto di classe lavoratrice. Insomma, gli operai, io poi sono figlio di operai, insomma, sia mia madre che mio padre erano operai in fabbrica. E io ho nei ricordi anche di bambino un po' di quella solidarietà che poi è stata dispersa e schiacciata via e spazzata via. Hanno lottato in migliaia e in milioni tra gli anni 60 e 70 per ottenere tutta una serie di cose che oggi le stanno erodendo, smantellando tutte. E quindi quel fatto di riuscire a ottenere qualcosa era già una speranza, cioè non c'era la disperazione perché lottando si ottenevano delle cose. Oggi ci hanno talmente convinto che non c'è più niente, cioè il mantra non ci sono soldi, non ci sono soldi, anzi... cioè, fra un po' falliamo, fra un po' non, chiudono la bottega, e ti mettono in una situazione di tale impotenza da cui deriva la disperazione, perché ci hanno fatto una sorta di lavaggio del cervello, cioè i soldi non ci sono per tutti noi, ma vediamo che chi è ricco diventa sempre più ricco, vediamo che le banche ne hanno sempre di più ma ne danno sempre di meno. Insomma, siamo entrati in una spirale perversa che credo che neanche chi ha contribuito a ingenerarla sappia più come fermarla. Però ecco, 35 anni fa la speranza c'era perché si otteneva qualcosa se provavi a conquistartela. Ma forse erano diversi anche i rapporti di forza capitale-lavoro. Sicuramente. Quello aiutava molto. Sicuramente, proprio perché... c'era una massa di persone che lavorando pretendevano anche dei diritti. Oggi la frammentazione, la dispersione fa sì che tu con chi lotti, cioè se ti ritrovi in due o tre ti schiacciano subito, e quasi non ci sono più situazioni di fabbrica, cioè pian piano le hanno tutte disperse nel resto del mondo. Quindi insomma, quando gli ultimi degli ultimi, cioè gli indios del Chiapas, già il primo gennaio del 94 hanno detto: quella che chiamate globalizzazione spazzerà per primi noi perché siamo gli ultimi, ma state tranquilli che rovinerà la vita a tutti voi lo stesso. Oggi ci siamo arrivati e quindi i rapporti di forza è certo che allora erano diversi, e per quello che non so quante generazioni ci vorranno per riuscire a ritrovare quella speranza nel lottare e ottenere qualcosa. Ma secondo te lo scatto del 77 era dovuto anche al fatto che comunque una crisi economica c'era appena stata, c'era stata la guerra di Kippur, sì. L'austerity di metà degli anni 70, qualcosa aveva comunque bloccato l'economia e immagino anche le aspettative, quindi magari non c'era disperazione ma un blocco c'era stato, mentre magari chi nel 68 aveva fatto le volte aveva trovato uno sbocco lavorativo perlomeno. Esistenziale. Sì, vedi, oltre alla crisi che comunque sono cicliche, che comunque si susseguono, c'erano altre componenti di che hanno convogliato poi tutto questo in una sorta di rivolta sociale, che è poi quello che chiamiamo 77 oggi. Ma vorrei ricordare per l'ennesima volta, nel mio piccolo ci provo sempre, oltre al fatto che dicevo ci siamo divertiti un casino, che c'era l'ironia, che tutto questo che è stato dimenticato purtroppo, ma l'altra cosa che vorrei ribadire è che allora ci fu da parte nostra, da quelli come noi che vivevano qui all'università, che provavano più o meno a studiare ma si interessavano di mille altre cose, c'era proprio una messa in crisi, una contestazione capillare e alle fondamenta di un certo modo di concepire l'esistente. Quindi tutto quello che era dalle banche ai rapporti con la famiglia, ecco, cioè, ma tutto. Per cui in questo si unì non solo le conseguenze di una crisi economica, non solo, che so, un pretesto come quello di una riforma universitaria che neanche vale la pena ricordare quale fosse il ministro di turno allora, ma che comunque scatenò le occupazioni delle facoltà e da lì tutto cominciò in maniera più intensa, più forte, più rivoltosa. Ma ripeto, alla base c'era una voglia di mettere in discussione l'esistente, cioè una sorta di intuizione, cioè intuire quello che sarebbe accaduto, cioè se andiamo avanti così comunque voi che siete corrotti, marci, che vi state rubando tutto, ci porterete a una situazione senza via d'uscita. Quindi l'assalto al cielo fu un assalto a una casta ante litteram, cioè era, per tutti noi era chiarissimo che quel marciume lì avrebbe portato al disastro. Poi credo che fosse non così tanto influente una crisi anziché l'altra, cioè c'era proprio una messa in discussione di tutto questo, cioè di un sistema che era marcio alle fondamenta. E quante persone ritenevate di avere dietro? C'era una famosa frase di Eco che commenta il tipo, il ragazzo che spunta la pistola a Milano, che dice: dietro di lui nessuno, dietro di lui il vuoto. Ma pensavate allora di avere il vuoto o sentivate una forza numerica potente? Cioè tante persone, a parte la cesura del 79, del 78, prima, a metà degli anni 70, 76, 77, sentivate comunque una forza di tante persone che vi seguivano o semplicemente... Ma più che altro non c'era nessuno che seguiva nessuno, cioè era una cosa diffusa, era questo il concetto diverso, cioè non solo io ma tutti quelli che frequentavano non erano minimamente preoccupati dal chiedersi chi ci segue, perché tanto più che seguirti ce li avevi davanti gli altri o di fianco, ecco, con chi vado più che chi mi segue. È un dato di fatto che in quegli anni anche quello che erano soltanto le manifestazioni raccoglievano una massa tale di persone che avevi l'impatto visivo del fatto che non si era in pochi. Però ripeto, non avendo nessuna neppure vaga pretesa di prendere un qualche potere, anzi solo di mettere in discussione il potere, nessuno si preoccupava di avere le masse dietro. Sì, se ne preoccupavano, che so, gli marxisti leninisti, quelli che dicevo prima, no? Quelli che come finalità avevano la presa del potere e che a noi facevano un po' ridere e ci facevano anche un po' tristezza, ogni tanto ci facevano pure incazzare, ma comunque di fatto quelli erano una cosa. Poi c'era questo movimento variegato, molto creativo, molto incasinato, molto caotico, di tutto, che se ne strafregava dei numeri, anche se era numerosissimo ed era sicuramente la parte maggioritaria del movimento, mentre erano minoritari i gruppetti, eccetera. E non era quel movimento che aspirava a cambiare le cose a revolverate, ovviamente, no? Quindi poco importa chi c'era dietro, se il vuoto o nessuno, dietro la foto di quello con la pistola, perché lì siamo già all'inizio della disperazione, lì siamo all'inizio della fine. Da lì in poi inizia la fine e basta. Però io parlavo appunto di tutto quello che c'era prima e che, ripeto, credo che insomma da parte di certe stanze del potere, non so come definirla, di certi potentati, di certi politicanti, avvertirono questa scossa, cioè si sentirono un po' minacciati da questa messa in discussione di tutto, perché bene o male non sapevano come affrontarti, non gli davi, non stavi al loro gioco, cioè noi avevamo cambiato il gioco, non stavamo alle loro regole del gioco, era questo, è questo che è difficile da raccontare, che è difficile da mettere in un libro, insomma, in qualche modo avevamo spiazzato le regole del gioco, cioè non ce ne frega niente di costituirci in partito, non ce ne frega niente del Parlamento, noi siamo altro, vogliamo cambiare la nostra vita quotidiana e non i rapporti di forza, quelli arrangiatevi e teneteveli voi. Ecco, tutto questo aveva messo un po' in subbuglio e in crisi le vecchie maniere di fare politica. Manca un minuto alle 18, ultimo quindi minuto. Prima di salutare Pino, di ringraziarlo, una scheggia, una risposta velocissima. L'utopia è qualcosa che non esiste o qualcosa che esiste ma in un altro tempo? Ecco, utopia... Lo so che è una domanda che utopia è largata, significa qualcosa che ancora non si è realizzato. Bene, allora diamo la speranza. Quindi l'utopia, come dice Galeano, è come l'orizzonte, cioè se muovi un passo, si allontana di un passo, di 10 passi e così via, allora che serve? Proprio questo, ad andare avanti. Cioè abbiamo bisogno di utopie, di sogni, altrimenti la disperazione ci seppellisce. Grazie Pino, grazie Vincenzo. Ciao a tutti. Ciao. Siamo sempre in diretta, siamo sempre